Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. È francamente eccezionale e perfetta questa introduzione del nostro amico Anacleto, che ovviamente non sapeva di un paio di cambiamenti, insomma, che c'è Carmelo Lauricella oggi in regia e qui possono partire gli applausi. Al suo fianco una Claudia Schiattone ringalluzzitissima dalla quadrupletta del Milan. Ieri è ripreso il campionato, contenta perché ha seguito la partita più importante del giorno, e quindi per il resto ci siamo con tutta la nostra redazione, e quindi Anacleto per il resto ci ha visto giusto lì dalla chiesina. Viva la chiesina! Ciao Anacleto, se incroci il direttore di banca fai finta di non riconoscerlo, perché tu bussi alla sua porta ma lui non la apre, chissà perché. Allora, ci siamo cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 11 con Uno Nessuno 100 Milan, sono anche in diretta su Facebook in video, ci potete guardare anche lì. È bello, straordinario, guardate che passi da gigante ha fatto la radio. Adesso si dice anche ci potete guardare in radio, un tempo questa era un'eresia, adesso ci potete vedere anche in radio. Allora, ci siamo? 800 24 0024 per connettervi con noi. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, i vostri audio. Siamo pronti, vai, vai Carmelo. Enthusiasm about the future. You get right up and sit back down. A revolution is one spin round. Allora ragazzi, io poi dopo dici sei falso profeta, ti fregi di questo. No, non mi fregio di nulla, ma ormai seguendo un po' la politica da diversi anni, ieri vi avevo detto anche questa storia dell'abbassamento dell'IVA. Ormai da anni non è, quindi premessa la critica a questo governo, d'altronde ricordate che vi ho letto per diversi giorni consecutivi questo libro Io sono il potere, confessione di un capo di gabinetto, che racconta come da anni la politica ormai sia governata così, e cioè con gli annunci che poi vengono lasciati decadere, gli annunci che vengono fatti per vedere l'effetto che fa, dico io, cioè per vedere poi la reazione, e poi forse allora si ritorna indietro sulla questione degli annunci. Allora, di cosa sto parlando? Questa riduzione dell'IVA. Io ieri vi ho detto, io sogno un politico, di qualsivoglia partito, che in Italia esca e annunci: abbiamo, che ne so, tagliato l'IVA o facciamo questo. Invece la politica in Italia funziona in modo diverso, si butta lì un'idea, si vede la reazione, e le reazioni su questo taglio dell'IVA sono state terribili dal punto di vista politico, tutti contro, tutti a criticare, Visco a dire bisogna fare un'altra cosa, i partiti anche di sostegno di governo che dicono ci vorrebbe prima altro, la riforma fiscale è un qualcosa di costoso, eccetera, e quindi il giorno dopo è già diventato no, ma era un'idea temporanea, domani sarà, ma no, ma forse era solo un progetto, giovedì IVA sarà IVA Zanicchi. No, parlavamo di IVA Zanicchi, non è che stavamo parlando di IVA. Tecnicamente i progetti in Italia hanno questo tipo di lungimiranza. Sentiamolo Conte su questo tema dell'IVA ieri. Si è valutata l'eventualità che l'IVA possa essere abbassata per un periodo breve di tempo, in modo da dare una sorta, dicono gli inglesi, boost, una spinta forte. Cioè è già diventato che si è valutata l'eventualità di una riduzione temporanea. mercoledì sarà un'altra cosa e giovedì, ma no, era una proposta, ma non ci sono le condizioni in questo momento di tessuto economico produttivo difficoltoso di operare questo possibile taglio di cui si è discusso con franchezza e reciproco confronto di idee, ma le condizioni effettivamente in questo momento attuale della spinta economica e della ripresa che dovrà venire non consentono, forse non, no, non consentono, forse è una frase un po' troppo dura, un po' troppo tranchant, però insomma sarà una dichiarazione simile. A proposito, io presente sono uno di quelli, forse direbbe cretini Simone Spezia, non so, che ho comprato un biglietto da Linate per Olbia ad agosto. Ti ringrazio, era la risata di Simone Spezia che è arrivata di fretta e di tutta in corsa, oppure era la solita risata, Carmelo, che hai preparato con grande gioia e sberleffo nei miei confronti? Sono uno di quei cretini che a Linate chiusa, però forse aprirà il 14 luglio, però forse aprirà a ottobre, questo è il panorama dei prossimi mesi italiani, ha comprato un biglietto ad agosto da Linate a Olbia per scoprire, oggi il titolo di apertura del giornale su questo, come ha detto bene Simone Spezia, che addirittura Alitalia vende voli falsi, l'accusa è clamorosa, non è che vende voli falsi, cioè si è capito che forse riapre il 14 luglio perché l'ultimo DPCM dice che vale fino al 14 luglio sulla questione della riapertura degli aeroporti, quindi si vendono i biglietti aerei, si vendono in anticipo, se poi non riaprirà Linate il 14 luglio che succede? Allora, a me sta anche bene, non è comodissimo, sta anche bene se viene riprotetto il volo su Malpensa, sarà un po' più scomodo partire, però obiettivamente se vengono, come invece saltando sul Corriere della Sera, cancellati alcuni voli, come dice Leonard Berberi sul Corriere della Sera, cioè il rischio di un'estate di voli fantasma, cioè voli che vengono venduti dalle compagnie perché hanno bisogno di fare cassa le compagnie. Tanto cosa succede? Se poi il volo viene cancellato ti ridò un voucher. Ragazzi, ma guardate che poi le rivolte sociali non è che si scatenano per cose un po' più gravi di queste, eh? Poi la gente si arrabbia un pochettino. Cioè questa storia del voucher, io veramente mi fa impazzire, siamo diventati la repubblica fondata sul voucher. Compri un biglietto di un concerto di Paul McCartney, l'abbiamo raccontato, il concerto viene annullato, ti do un voucher. Compri un biglietto aereo perché vuoi andare, che ne so, in Messico. Chi è che ha preso un biglietto aereo per il Messico? Non so, chissà perché mi è venuto in mente il Messico. Stavo pensando un attimo alla redazione di Uno Nessuno 100.000. Qui ci vuole la risata, Carmelo, scusa, qui ci vuole la risata. Vabbè, compri un biglietto per andare l'estate in Messico, ti ridanno un voucher. Ma che me ne faccio io di un voucher? Volevo andare in Messico quest'anno, volevo andare, che ne so, in Sudafrica quest'anno, non è che mi rimborsi con un voucher, ridammi indietro i soldi. Questa invece siamo la Repubblica fondata sul voucher. A proposito del voucher, devo fare un passo indietro di un paio di giorni, perché allora, quella di prima non era una critica al governo, ma una critica alla sistema politica in generale, cioè quello degli annunci a cui poi non seguono i fatti, la questione del taglio dell'IVA. Questa invece, lo dico, è un pochino una critica al governo, perché su questa storia del voucher, due giorni fa gli Stati Generali hanno anche proposto, e lo sentite adesso il Premier Conte, un voucher da 500 euro per favorire le donne a diventare manager, perché ha detto Conte il 6% delle più grandi aziende sono guidate da donne, quindi bisogna favorire le donne manager. Per questo, per le donne manager, proponiamo 500 euro di voucher. Io ti giuro, una roba che ha fatto sobbalzare moltissime donne, stupenda Gaia Tortora che ha risposto: dallo a tua sorella al voucher. Ma sentite, sentite qui, perché c'è un giallo dietro. Sentite. Delle volte sono stati portati anche dei progetti a cui non avevamo pensato. Uno che ci è piaciuto per esempio, sì, è quello di un voucher, sempre piccolo, però è significativo in quest'ultima piccolo direzione. Un voucher di 500 euro per 3 anni per le donne manager, per le donne che aspirano a diventare manager. Delle prime 500 imprese in Italia, guardate, più o meno, non vorrei sbagliare la percentuale, solo il 6% è in mano. E questa è la statistica. Non so se avete sentito, cioè per diventare manager bisogna fare degli MBA, bisogna fare dei master costosissimi, bisogna fare un percorso, un voucher da 500 euro per 3 anni, ma qui c'è il giallo. Queste sono le parole del Premier Conte, l'avete sentite? Proponiamo un voucher da 5, piccolo, lo ha detto lui stesso, 500 euro per 3 anni. Poi, come raccontano oggi dei giornali, racconta La Verità, per esempio, poi nel resoconto degli Stati Generali è stata cambiata la versione, e cioè no, non si intendeva 500 euro di manager alle donne, ma si intendeva, volevamo intendere nel progetto, voucher per pagare a 500 donne un MBA executive del valore di 35.000 euro. Cioè non volevamo dire 500 euro a donna che vuol diventare manager, ma 500 donne beneficeranno di un voucher per un MBA da 35.000 euro, che è un po' diversa la questione. Ma poi, ragazzi, ma sti voucher, ma non vi hanno rotto veramente i cosiddetti, i voucher? Vabbè, dai, 800 24 00 24. Ora voglio parlare di un tema che si scollega totalmente con l'introduzione. È una proposta che però mi ha fatto ragionare e mi fa pensare da qualche giorno, avendo anche 2 figli adolescenti, insomma di 14 e 11 anni. Saluto Maura Manca, che torna con noi, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Presiede l'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza. Saluto il senatore Simone Pillon, Lega Nord, torna con noi. Senatore Pillon, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, perché molti ascrivono a lei come primo firmatario questa proposta, ragazzi? L'idea è questa, di bloccare, adesso ci spiega come fare, dei filtri automatici sui dispositivi che diamo in mano ai nostri figli, il porno, cioè i siti, la pornografia, che effettivamente ormai è dilagante, con un click si può accedere a qualunque tipo di sito. Allora, senatore, intanto ce la spieghi tecnicamente a chi sarebbe rivolta, per chi è studiata e come sarebbe messa in pratica? Ma noi in Commissione Infanzia è un anno e mezzo che ascoltiamo il grido di dolore delle famiglie, ma soprattutto del mondo della psicologia e soprattutto della neuropsicologia dell'età evolutiva, con il problema enorme dell'esposizione dei minori a contenuti che non sono solo la pornografia, ma sono anche per esempio la violenza, il cyberbullismo. Abbiamo ascoltato anche gli operatori telefonici per cercare di capire come intervenire, e la soluzione che ci è stata proposta unanimemente è quella di informare e consegnare ai genitori un'app che sia preinstallata su tutti gli impianti, quindi non solo sul telefonino, sullo smartphone, ma anche sui laptop oppure sui tablet, eccetera, che sia preinstallata e che sia a disposizione dei genitori. Quindi tecnicamente cosa succederà? Che tra i vari programmi preinstallati sugli smartphone oppure sui tablet oppure sui computer ci sarà anche un parental control, sarà consegnata la password al titolare del contratto, il quale potrà bloccare, sbloccare o oppure anche volendo disinstallare l'app. Sì, perché ricordiamo che queste app già ci sono, ma ovviamente a pagamento, cioè uno se le deve. Ci sono dei sistemi di parental control efficacissimi, però uno se li deve pagare. Perché qua noi diciamo no, deve essere preinstallata gratuitamente a spese degli operatori, perché abbiamo dati per cui il 76% dei genitori non conosce neanche l'esistenza dell'app e quindi consegna il telefonino ai figli senza che questi abbiano nessun filtro. Considerando oltretutto il periodo di lockdown e quindi la didattica a distanza, i bambini anche piccolissimi, io ho un bambino di 10 anni che ha avuto in mano il tablet ovviamente per poter seguire la didattica, sì, a distanza, e mi sono posto il problema dicendo ma lui poi ha il tablet, io non è che posso stare tutto il giorno. Chiaramente questo non va a sostituire il compito dei genitori, eh? Per cui non è no, che è chiaro, ho messo la app, arrivederci e grazie, però è un segnale chiaro e soprattutto è una mettiamo a disposizione dei genitori anche uno strumento tecnologico che li aiuti. Poi ma allora, no, ma è chiaro, la sostituzione genitore-figlio, questo non c'è, la sostituzione tablet-genitore, ma di questi temi proprio con Maura Manca parliamo tante volte, però è vero, Maura Manca, che non è che il genitore può stare lì 24 ore su 24 dietro al figlio a vedere, va bene anche l'impostazione del dialogo, però si sa che ci sta un po' l'idea della trasgressione, che l'adolescente vada a vedere certe cose. No? Come la vede Maura Manca questa idea del blocco, il blocco senza colpo ferire? Allora, l'idea di fondo, che è quella di proteggere i minori dai rischi della rete, è assolutamente nobile ed è la campagna che tutti noi da anni stiamo portando avanti. Però secondo me c'è il rischio che si vada verso una sorta di banalizzazione del problema. Il problema è un po' più complesso di quello che si possa pensare, perché allora questo blocco bisognerebbe metterlo su tutti i dispositivi multimediali, compresa la PlayStation, compresi i televisori, perché oggi l'accesso in rete è anche da un frigorifero. Ci sono ragazzi che chattano sui social network anche dai mezzi appunto di casa e domestici. Quindi io credo che questa non possa essere la soluzione, perché poi si rischia di inglobare bambini e adolescenti in una condizione che poi invece andrebbe estremamente differenziata, perché questi stessi genitori poi sono quelli che danno WhatsApp ai figli, cosa che sotto i 14 anni non potrebbero usare, quindi non potrebbero utilizzare le chat, non potrebbero utilizzare le social, e i contenuti pornografici violenti veicolano soprattutto attraverso anche video amatoriali, quindi non scaricabili direttamente dalla rete, ma che rimbalzano da un telefonino all'altro, e questo emendamento a ovviare questo tipo di problematiche, perché poi bisognerebbe ragionare su chi filtra i contenuti inappropriati per i bambini e per gli adolescenti, perché il contenuto inappropriato per un bambino non è magari contenuto inappropriato per un adolescente, perché un diciassettenne che magari vuole vedere un porno per l'autoerotismo non è così patologico e non è così deviante da un punto di vista psicopatologico. Quindi secondo me rischiamo di fare di tutta un'erba un fascio. E poi attenzione, gli adolescenti oggi un parental control lo superano senza nessun tipo di problema, perché molte volte... Sì, questo è un problema che conosco bene. È una battaglia. Sì. Però è interessante, Simone Pillon, avete pensato a un'età, un limite d'età, fino a 18 anni, 17, 16? No, noi abbiamo collegato, diciamo, l'obbligo di mettere questo parental control alla stipula di un contratto di fornitura di internet, quindi qualsiasi poi sia il dispositivo finale, che può essere appunto anche il frigorifero, dovrà montare questo tipo di parental control, quindi anche le smart TV dovranno montarlo. Sì, ma fino a che età? I 18 anni? L'età è affidata ai genitori. Cioè noi restituiamo ai genitori la loro potestà educativa, che gli spetta, ricordiamo, per Costituzione, hanno il dovere ma anche il diritto di educare e istruire i loro figli, e saranno i genitori nel dialogo con i loro figli a decidere liberamente quando e se sbloccare il parental control ai loro figli. Ci sarà qualche ragazzo o qualche ragazza importante, più evoluto, che magari più diciamo maturo, che potrà avere lo sblocco a 15-16 anni, e qualche d'un altro che invece sarà bene che ce l'abbia fino a 18, oppure però dipende dai genitori, chi conosce meglio dei genitori i propri figli, quindi non ha senso che lo Stato vada a sostituirsi. Lo Stato mette a disposizione un sistema, quindi imponendo alle aziende di offrirlo gratuitamente ai cittadini e poi i genitori dovranno far valere la loro responsabilità educativa nel dialogo con i figli, bloccando a seconda della maturità. Beh, questo è interessante, questo tipo di approccio, dottoressa Manca, le piace l'idea che non ci sia un'obbligatorietà, ma ai genitori viene dato comunque il potere di decidere, insomma, il potere educativo. Beh, sicuramente questo va un po' più verso il discernimento anche da parte dei genitori, che possono valutare. Sul chi conosce meglio dei genitori i figli ho qualche dubbio, sinceramente, perché forse abituata a lavorare con i ragazzi ci sono delle lacune. Sono capaci di nascondere. Sì. Esatto, quindi sicuramente, però ribadisco, quali siano i contenuti da filtrare e quali no, perché oggi sappiamo perfettamente, esempio, anche gli adescatori online si nascondono dentro cartoni, dentro assolutamente contenuti che non risultano inappropriati, e poi abusano e manipolano i nostri bambini, per cui sì, io credo che sia un tema estremamente delicato da affrontare a più livelli, che non sia la soluzione. Mi viene in mente invece quello che fa per esempio la Neozelanda, al contrario nostro, che invece hanno fatto una campagna per i genitori, creando dei siti in cui sono in interazione costante e continuativa con le famiglie per aiutarli a parlare della pornografia, fargliela vivere in una maniera differente, e quindi invece di creare dei blocchi con uno spot che, se andate a cercarlo in rete, è estremamente interessante e fa riflettere, cioè invece di crearti un tabù e quindi di portarti ancora di più a violare le regole, io ti faccio vedere quali sono i limiti e porto le famiglie a parlare con i figli e a indirizzarli verso una sessualità e un'educazione alla sessualità più matura e meno inversione. No, ma è chiaro che l'educazione alla sessualità è la chiave, come dire, fondamentale. C'è da dire, io non lo so, è da giorni che mi interrogo e non ho una risposta. Diciamo che già porsi il problema, secondo me, è una risposta, perché c'è effettivamente una sessualità che a 10 anni, a 9 anni, a 11 anni non può essere risolta mettendosi su dei siti per vedere meccanicamente che cosa succede quando si fa sesso. Io credo che ci siano, come dire, età giuste per approcciare certi temi, quindi non ho veramente l'idea se possa essere questa la risposta efficace. Molti ci dicono: guardate che a 11 anni ormai sono dei piccoli hacker, per cui riescono a superare qualsiasi tipo di blocco. Anche questo è vero. Chi mi suggerisce: ma conoscete Family Link di Google? Figurarsi, messo 2 giorni ed era craccato, cioè superato, aggirato, cioè sono capacissimi. Guardate, io mi devo fermare qui perché c'è la pubblicità. Vi ringrazio, il dibattito è molto ampio. Se volete lo riprenderemo, perché è molto interessante. So che poi, quando si parla di queste cose legate molto alle famiglie che sono interessate, tutti coloro che hanno figli sono interessati a questo tipo di discorsi, lo riprenderemo. Per il momento devo ringraziare il senatore Simone Pillon della Lega e Maura Manca, ripeto, presidente dell'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza. E, che dire, il tema è interessante. Devo capire come mai, quando si parlava di questo tema, Carmelo Lauricella ha detto: e beh, allora perché non c'è Manera già collegato? Non lo so, gli è scattata questa associazione totalmente naturale, che devo approfondirla un attimo dopo la pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma che tristezza questo stato, papà, che deve fare le veci dei genitori nei confronti dei figli, mettere le app che controlla. Che tristezza infinita. Italiani, l'unica ripresa che vedo è la ripresa per il culo. Abbassare l'IVA sarebbe una bella idea, ma è già tanto se non l'aumentano. Scusa Milan, ma tutti questi voucher che sta facendo il governo, ma ci pensa poi chi deve ridare tutti i soldi per il debito pubblico? Questi come ci hanno due lire dalla comunità europea li sparpagliano. No, no, ci vuole e non ci vuole un economista, ci vuole una casalinga al governo. Ciao! La casalinga al governo. Leonardo Manera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buon appetito a tutti. Stavo facendo colazione. Stavo facendo colazione con delle cipolline pangrattate e un filo d'olio. Questa è la mia colazione di oggi. Invito tutti a provarla, è molto saporita. Le cipolline proprio, poi un po' di pangrattato e un filo d'olio. Non d'olio d'oliva perché... Quel povero frigorifero, è stato riempito con qualcosa? In parte ho messo qualcosa nel frigorifero, sì, senza esagerare. Perché mi piace vedere bene tutto quello che c'è nel frigorifero e se si accatasta tutto poi alcune cose restano sotto. Quindi più pieno di ieri. No, giustamente dici non prendo tanta roba per non buttarla, però voglio dire sei veramente ligio a questa massima, cioè... Ne prendi no, è proprio pigrizia. A me non piace andare a fare la spesa e stare lì ore a fare la spesa. Questo non è un problema di essere e di non buttare via le cose. È la mia pigrizia atavica che ogni tanto si manifesta. Ci sono anche le spese online. Vabbè, ma dai, non entriamo in questo capitolo perché insomma, dopo dici che non ti va bene. C'è ancora la stampante ad aghi e vivi in un mondo. La stampante ha ripreso a funzionare in parte. Io sono un uomo del Novecento, non mi si può chiedere. Sì, sono del 900. Sì. Va bene, la gente si lamenta dei troppi voucher, staremo a vedere. Anch'io sono convinto che sarebbe bello abbassare l'IVA, tagliare l'IVA. Certo, dicono che solo per un taglio temporaneo servano 10 miliardi, perché la coperta, si sa, è corta, poi se tagli l'IVA, parte che chissà se questo fa ripartire i consumi. Si dubita molto. Io ho la soluzione. Abbassare i prezzi. Attenzione, ecco, Leo risolve facile. Tu cosa proponi? Facciamolo in modo simbolico per un giorno. Siamo un giorno. Il giorno della riduzione dell'IVA. Sì, quel giorno L'IVA puoi andare a fare qui. Sì. L'IVA Day. Vabbè, potrebbe essere il taglia IVA Day. Ragazzi, sì. Parliamo di una cosa ben più seria con un ospite che torna con noi, mi fa molto piacere. La notizia di ieri è questa: la Lombardia aderisce a questa iniziativa denominata Liberi di Scegliere. È un progetto molto importante per dare una possibilità a chi nasce, e non è colpa sua, in ambienti e da famiglie di criminalità organizzata, con la possibilità di dare a questi figli, togliendoli ovviamente dal loro ambito mafioso familiare, di farli crescere in un ambiente diverso. È un'iniziativa di cui il primo promotore è il presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che torna con noi Roberto Di Bella e che salutiamo. Buongiorno presidente, grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Perché è una proposta che è un'idea, è un progetto che lei già da tempo ha lanciato, ricordiamo, ne ha parlato fino anche il New York Times, che può sembrare per principio, sa che molti non ci credono quando si parla di questo progetto. Ci può invece far capire che effetti ha prodotto concreti questo risultato? Sì, i risultati sono veramente molto importanti. Abbiamo adottato negli anni più di 60 provvedimenti per circa un'ottantina di minori e molti di loro adesso possono aspirare a una vita finalmente libera. La cosa importante che è accaduta è che anche molte mamme ci stanno venendo dietro, hanno capito che l'andrangheta provoca sofferenza e allora vedono nel Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, territorio di frontiera, l'ultimo baluardo, l'ultima spiaggia nel mare dell'illegalità, che è appunto fonte di morte, di carcerazione e sofferenza. Vengono a bussare alla porta a dire togliete i nostri figli dalla famiglia temporaneamente, fateli crescere in un ambiente più sano. Sì, è questo, e molti di loro ci chiedono di andare via assieme ai loro figli. E questo è un passaggio molto molto importante, perché l'Andrangheta crea un'organizzazione che sulla struttura familiare fonda la sua forza. Allora le donne che decidono di andare via per l'amore dei figli arrecano un colpo importante alla credibilità di questo sistema criminale. I risultati, come dicevo, sono molto, molto significativi, molto incoraggianti. Cioè 80 minori che non crescono in quel contesto. Ci si chiede poi, Presidente, e questo però non è, come dire, di sua competenza, quando un domani avranno 20 anni, 22 anni questi ragazzi, che tipo di scelte faranno quando saranno maggiorenni? Potranno ricongiungersi con il loro ambiente di partenza? Le posso dare subito una risposta. Noi abbiamo realizzato un protocollo interministeriale con la presenza di più ministeri, della Procura Nazionale Antimafia, dell'Associazione Libera, protocollo che è finanziato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana con i fondi dell'8 per mille. Tutti i ragazzi che raggiunta la maggiore età vogliono aiuto per un inserimento sociale e lavorativo lo avranno, e anche le mamme che decidono di andare via al seguito dei loro figli. Attualmente abbiamo più di 20 nuclei familiari fuori dalla Calabria che sono sostenute da questa rete di protezione sociale. Certo. Ma che tipo, sì, di ricordo scelta, che ne avevamo parlato già, ricordi Ale? Ne avevamo parlato assolutamente, sì, sì, di due anni fa, ma adesso fanno questa scelta. Diciamo, la Lombardia ha aderito come regione, cioè a dire, ecco, questa adesione della Lombardia ce la può spiegare in concreto che cosa vuol dire che la Lombardia aderisce a questo tipo di progetto? Verosimilmente ci saranno delle iniziative di carattere legislativo e anche saranno realizzati dei protocolli simili a quelli che abbiamo realizzato in Calabria, e questo è un aspetto, un passaggio culturale molto importante. Si focalizza l'attenzione sulla questione minorile, che io credo sia di cruciale importanza in tutte le regioni di Italia, non soltanto in Calabria. Io non so se, Presidente Di Bella, gli ascoltatori possono capire, non lo capisco neanche io, che un pochino mi interessa di questo argomento, di come sia importante, cosa voglia dire la scelta di una mamma di sradicare se stessa e il proprio figlio da un contesto familiare ndranghetista. Ce la può spiegare lei cosa significa questa scelta? Cioè, c'è un modo per far capire quanto sia difficile fare questo tipo di scelta a un ascoltatore che magari non si rende conto, insomma? Molto difficile. Sono donne che vivono spesso in paesi di 5-6 mila abitanti, il loro paese, il loro quartiere, tutto il loro orizzonte. Sono scelte che comportano grande sofferenza. Diciamo che l'amore per i figli e la sofferenza che l'andrangheta infligge anche all'interno sono la leva per vincere rassegnazioni, paure ataviche. La scelta è molto complessa e spesso è tormentata, però io le posso dire, in base all'esperienza che abbiamo fatta, che quando queste donne riacquistano la loro libertà, la consapevolezza dei loro diritti, delle loro potenzialità, non vogliono più tornare. L'amore per i figli fa vincere. Ma e la criminalità organizzata come le considera? Come considera questa scelta? Cioè, in che condizioni devono vivere queste persone? Certamente non in modo positivo. Noi garantiamo una rete di protezione in altre regioni, però voglio dirle che ultimamente abbiamo avuto anche dei segnali positivi. Diversi detenuti al 41 bis ci hanno scritto, ci hanno incoraggiato a proseguire nella strada che abbiamo intrapreso. Molti hanno detto: giudice, avessimo avuto noi la stessa possibilità che lei sta offrendo ai nostri figli, forse non ci troveremmo in questo luogo di sofferenza. Ecco, ma anche questo è un passaggio culturale molto importante. Questo forse è l'attestato più inaspettato e migliore, cioè addirittura criminali, ndranghetisti che dicono sì, è vero, aiuti i nostri figli, perché questa strada che abbiamo intrapreso, insomma, non lo chiamerei pentimento però questo, no? Però una sorta di ravvedimento delle proprie azioni, questo sì, da parte di questi detenuti. Sì, assolutamente. Diciamo che la vita all'insegna dell'illegalità, questo è il dato che abbiamo ormai chiaro, provoca sofferenza, non soltanto all'esterno, ma soprattutto all'interno delle famiglie. E non tutti sono irriducibili. Nell'oscurità di una cella, dopo anni di isolamento, c'è spazio per riflessioni profonde. E i figli sono una leva importante per il cambiamento. E questo... Io parlavo anni fa con un amico poliziotto di Roccella Ionica, mi diceva che a volte i figli gli andranghetisti non possono, non sperimentano mai la vita normale, cioè anche semplicemente andare a mangiare una pizza senza la possibilità che qualcuno estragga la pistola, con un minimo di serenità, quindi la trovo una scelta molto giusta, insomma. Giusta e tormentata, però certo. È da questi piccoli progetti che si stanno espandendo che si può pensare a un po' a un futuro migliore, con qualcosa di concreto. Ricordiamo che questi ragazzi sono poi gli uomini del futuro, no? Gli uomini e le donne del futuro. Noi, Presidente Di Bella, la ringraziamo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, sempre disponibile e gentile a spiegarci questa iniziativa che secondo me andrebbe pubblicizzata un po' di più, raccontata un po' di più. Ripeto, qualche anno fa, quando è partita, si è interessata a questa vicenda anche il New York Times a raccontare di come si possono temporaneamente sradicare, questa è la parola giusta anche se brutale, i ragazzi indranghetisti e farli crescere in ambienti, contesti più sani. Allora, caro Leonardo, adesso andiamo un attimo al traffico. Hai qualcosa da annunciare sul traffico? C'è qualche previsione? Insomma, hai un problema che puoi risolvere in 448? Anche un problema dell'Italia che vuoi così risolvere? Ma questa tua ironia mi sembra del tutto fuori luogo. Chi non vuole era, mi contatta. Non era ironico. La classica ironia è fuori luogo, spiacevole. Non ero ironico. Queste caricature ironico. Che vengono fatte, la visione caricaturale. Se qualcuno ha dei problemi, mi scriva in privato e vedrà che io li risolvo in un battibaleno. Andiamo al traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo, innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Uno, nessuno, 100 Milan. No, Mila, buongiorno. Non è che Manera è ligio, è semplicemente taccagno. Con la cipolla ci mangia una settimana. Ma io al governo metterei Manera, che è il più adatto a tenerci sul morale, cioè numero uno. Anche perché i comici che ci sono adesso al governo, insomma, fanno poco ridere. Eccolo lì. Oggi è un po' smargiasso il Manera, già questo stamattina incrementerà il suo indovinato esponenziale. Ho fatto colazione con le cipolle. Ho fatto colazione con le cipolline. L'hai detto stamattina. Tu? Cipolline, sì, sì. Sì, ma l'hai detto cipolline. Tu, non è che hai indovinato. Ah, l'ho detto io, prima. Non ricordo. Ma hai esordito dicendo, ragazzi, Claudio Schiattone, chiama qualcuno al 118, mandagli una badante, qualcosa. Vabbè, un conto sono le cipolle, un conto sono le cipolline, non bisogna così generalizzare. Sì, dai, lo smargiasso, allora. vai Leo, vai. Allora, poco fa abbiamo parlato col senatore Pillon, che è anche il primo firmatario della proposta di legge per l'affido condiviso paritetico tra genitori. Tralasciando gli aspetti tecnici che non mi competono, vorrei solo parlare della mia esperienza di padre separato. A prescindere dalla causa che ha portato alla separazione i genitori, quando ci si lascia è sempre colpa di tutti e tre, diceva il comico Rocco Barbaro, ma questa è una battuta, a prescindere dalla causa che ha portato alla separazione i genitori, è innegabile che quasi sempre, se la separazione è giudiziale e l'affido è condiviso, poi però quasi sempre la collocazione prevalente del bimbo viene sempre appunto riservata alla madre. Il che significa che il padre può vedere il figlio un fine settimana sì e uno no, dal venerdì pomeriggio alla domenica ora di cena, e poi una o due volte a settimana, diciamo 8, se va bene 10 giorni al mese. È indescrivibile la sensazione che un padre prova quando di colpo si rende conto che non è più un padre che può condividere giorno per giorno la crescita del figlio, non è più un padre che quotidianamente può confrontarsi col figlio, non è più un padre che ogni sera prima di andare a letto può dare una carezza al figlio e augurargli banalmente la buonanotte con un bacio. Non è più nemmeno un padre che può sgridare serenamente il figlio quando lo merita, senza temere ripercussioni su un rapporto che in qualche modo è già limitato dal tempo a disposizione. Perché a quel punto il padre separato non è più un padre normale, è un padre dimezzato dal tempo compresso che gli è rimasto per stare col figlio. E allora la domanda che anch'io mi sono posto quando mi sono separato è stata: cosa può insegnare questo padre dimezzato al proprio figlio vedendolo così poco? È la domanda che mille volte mi sono posto di venerdì pomeriggio quando andavo a prendere mio figlio all'uscita da scuola e lui correva verso di me sorridendomi e io lo accoglievo tra le mie braccia. Il padre separato è un padre che quasi sempre si deve reinventare, deve essere padre completo ma in 8 giorni al mese, aiutandosi con le videochiamate, occupandosi dei compiti nel fine settimana, giocando col figlio e imparando a cucinare, perché incredibilmente quando sono con mio figlio il frigo si riempie e cucino delle schifezze che però sembrano perfino mangiabili. E allora, anche se spesso c'è dispiacere, se qualche volta c'è anche sofferenza per la nuova situazione, si indossa il sorriso migliore per far finta che niente sia cambiato, per far finta che sia anche meglio di prima, perché adesso il figlio, si dice, ha 2 case in cui giocare, così si dice. Poi, poco alla volta, i problemi si superano e ci si riapre alla vita. Perché in fondo a questo serviamo come genitori, ad aiutare i figli a superare i problemi e ad andare verso la vita. Ma troppo spesso si pensa, anche i giudici pensano, che le madri siano sempre e comunque più adatte a gestire i figli. Invece entrambi sono il padre, la madre, genitori, a entrambi sta sempre al cuore il destino dei figli. Ma troppo spesso al padre è riservata una funzione molto economica e poco affettiva, in una sorta di discriminazione di genere, stavolta a danno del genere maschile. Il figlio e i figli dovrebbero avere diritto di avere 2 genitori completi, non uno intero e uno dimezzato. Altrimenti chi ne soffre non è solo il padre, che è un adulto e sa che la vita non è una gita a Gardaland, ma ne soffre il figlio che, soprattutto quando è piccolo, avrebbe ancora diritto alle sue speranze, ai sogni, e a poter dire di persona, senza dover aspettare una settimana intera, a poter dire di persona: ti voglio bene, papà. E allora Leo, quando sei così anche un po' malinconico, poi dopo mi viene il groppino in gola, ma davvero. No, ma mangio una cipollina e vedrai che ti passa. Ecco, infatti, che mi deve durare fino a venerdì, come dici tu. Allora, la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan termina qui, ma abbiamo tanti altri temi da affrontare. E le vostre telefonate all'800 24 00 24. Non abbiamo svelato come mai Carmelo Lauricella, appena abbiamo parlato di porno, ha detto dovrebbe esserci anche Manera, ma adesso me l'ha detto Carmelo, perché avendo un figlio anche tu eri interessato all'argomento. Di capire, non so se avevo già raccontato, scatenata subito questa associazione. Non so se avevo già raccontato in onda quando io fui protagonista di un fumetto porno. A te l'avevo raccontato, ma non so se l'avevo raccontato in onda. Lo dici dopo il giornale radio, dopo. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Uno, nessuno, 100 Milan. Io prenderei tutti i soldi che ci dà l'Europa e indietro gli darei un bel voucher. Ma poi col voucher posso anche pagare le tasse, pagare la spesa. Se lo rendessero mobile avremmo fatto la liretta bingo. Di Pappalardo, bingo, effettivamente non è male. Io prendo un volo aereo, poi viene cancellato il volo aereo, mi danno un voucher e quando devo pagare l'IMU dici: toh, guarda, c'ho qui un voucher che mi cresce dalla tasca, tieni qua, comune di Forlimpopoli. Mi piace sempre citare Forlimpopoli, saluto gli amici di Frampol. Sarebbero i mini assegni di cui si parlava qualche tempo fa, moneta alternativa. Torniamo ma io lì, non ho capito questa roba del voucher. Ma perché ti danno un voucher? Cioè, spettacolo di Manera annullato, ti do un voucher per non so, io cosa faccio con questo voucher? Mi compro una bottiglia di grappa? Cioè, se fosse così, se fosse possibile, per carità, ma temo che non sia così. Diventa una moneta alternativa. Cioè, ma io temo, allora a quel punto, non è così. No, ma a quel punto io veramente, facendo delle stampanti dove ognuno si può stampare del denaro, io propongo questa cosa. Sì, stampati il tuo voucher. Ci dovevi raccontare che hai preso parte, com'è che è? Hai preso parte a un film porno. Allora, la mia figura, il mio viso, è stato la mia faccia, è stato protagonista di un fumetto erotico anni fa che si chiamava Corna Vissute, tu lo conosci bene, anche molti altri ascoltatori sicuramente hanno comprato. Bene? Sì, so che eri abbonato. Allora, sì, no, ho visto la lista degli abbonati di Corna Vissuto, tu eri il terzo o il quarto. Allora, perché io allora frequentavo un locale che si chiamava La Corte dei Miracoli, un locale di cabaret qui a Milano in zona Porta Genova, via Mortara per l'esattezza, gestito da Renato Converso. Quel locale era frequentato anche da un disegnatore di Corna Vissute che prendeva le facce di quelli che salivano sul palco per poi renderli protagonisti dei suoi fumetti. Io allora facevo il prestigiatore, facevo tutti gli animaletti con i palloncini, usavo quei palloncini lunghi e stretti. Allora lui prese la mia faccia, il mio viso, protagonista di un episodio di Corna Vissute, dove io anche dentro l'episodio di Corna Vissute facevo tutti questi giochi da mago con i palloncini e anche con che l'altro sesso. L'episodio si chiamava Il Mago del Cazzo. Signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 si può concludere qui in anticipo, in largo anticipo. Ci ritroviamo domani alla solita ora. No, scherzo. Va bene, dai, signori, 10 minuti. Ma avete visto che cosa è successo a Padova qualche giorno fa? Cruciani ovviamente ci si è buttato subito a capofitto intervistando il proprietario di questa Porsche, sai che si deve dire Porsche in tedesco, Porsche. Di questa Porsche l'ha messa sotto, siccome pioveva, l'ha parcheggiata sotto i portici. Una bella Porsche gialla. E allora va bene, e fin qui uno dice come derubrichiamo a questo gesto, insomma, smargiasseria alla Leonardo Manera, non lo so che non ha la Porsche, però vabbè. Ora l'Università di Padova vuole in qualche modo, prendendo spunto da questa vicenda, discuterne, non so farne cosa, ma chiedo alla protagonista, la docente di sociologia della cultura a Padova, Francesca Setiffi. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti e a tutte. Ecco, allora, non ne vogliamo fare proprio un caso studio, però ci avete riflettuto per arrivare a pensare cosa di questo gesto? Io direi, ma guarda qui, a Milano si direbbe, ma va qui che pirla, no? Uno che fa una roba del genere. E invece? Allora, tutto nasce perché Claudio Riva, che è il presidente del corso laurea in scienze sociologiche all'Università di Padova, mi propone di scrivere un post sulla pagina Instagram del corso, su questo fatto, più che il fatto sulla sua narrazione giornalistica, perché in realtà è vero che il parcheggio abusivo è stato segnalato, però vari giornali hanno ripreso questa Porsche gialla sotto i portici del centro di Padova, come dire, commentando e associando l'oggetto, quindi l'auto, allo stile di vita del proprietario, che insomma, seguendo le sue parole, pare essere molto eclettico, eccentrico, insomma, e vistoso come l'auto. Allora abbiamo protagonista della movida di Padova, esatto, re della movida si è definito lui sui giornali, cito le sue parole, e quindi abbiamo pensato, perché non farne un post su Instagram dedicato agli studenti, agli studentesse, a tutti coloro che seguono questo profilo, che ha anche un discreto successo, che è fatto per portare la sociologia ai giovani che popolano i social network, quindi una riflessione sulla vita quotidiana fatta attraverso le lenti della sociologia, che si occupa di tematiche anche molto diverse tra di loro, no? Insomma, si occupa anche di diseguaglianze, di discriminazione, di pluralismo religioso e culturale, però insomma ci faceva piacere fare un commento su come i giornali hanno raccontato l'evento, sostanzialmente per dire, bene, allora la forza evocativa degli oggetti è ancora molto forte, la forza comunicativa degli oggetti, con i nostri scelte di consumo comunichiamo molto della nostra identità, vedi Porsche gialla, apprendo adesso che si mette anche la E, Sì, esatto, e poi anche il modo in cui in qualche modo la persona e il proprietario dell'auto si è scusato, ha giustificato il suo gesto, insomma, identificando quest'auto come l'amore della sua vita. E qui mi ha detto, tante riflessioni ci sono sul modo in cui gli oggetti in fondo aumentano i confini biologici del nostro corpo. Evidentemente, probabilmente ipotizziamo che per questo proprietario l'auto sia veramente un'estensione del suo, sì, del infatti, suo corpo. Esatto, infatti voi avete scritto, lei ha scritto in questo post, chissà cosa sarebbe successo se l'auto in questione fosse stata una mite Fiat Panda. Esatto. Beh, forse sì, se avesse avuto una Fiat Panda non l'avrebbe messa sotto i portici. Questo è... Chissà, qualcuno sui nei commenti dei social ha scritto, chissà, forse sarebbe capottabile dell'84, chissà. Chissà, insomma, voglio dire, è un po' una provocazione fatta per dire, ci sono delle norme giuridiche che vanno rispettate, non siamo favorevoli ai parcheggi sotto i portici come sociologi, ma ci sono anche delle norme culturali, no, che non sono scritte, che suscitano poi scalpore. In certi anni qualcosa suscita scalpore, in altri meno. Quindi, ma tra l'altro lei ha citato, vabbè, un sociologo dei consumi come Gianpaolo Fabris, che insomma, sì, è conosciuto, cioè, però ha citato anche Pierre Bourdieu. Adesso devo spiegare agli ascoltatori chi è Pierre Bourdieu, come riprendendo le riflessioni di Pierre Bourdieu, per carità, per i suoi studenti sarà pane quotidiano, per noi, per Manera esiste Pierre Bourdieu? Esiste? No, ho scomodato un sociologo francese tutto sommato recentemente scomparso per parlare di pattern di consumo, un'altra parola che ha suscitato un po' di oddio, pattern, insomma, probabilmente noi consumiamo nel modo in cui, allora, la Porsche sta insieme gialla, sta insieme anche alle parole del proprietario, stile di vita eclettico, radio movida padovana, vuol dire un po', come dire, richiama il suo stile di vita, che è stato un po' anche forse al centro della norma culturale che è stata, no, sollevata da questa sanzione collettiva, ecco. Sì, no, Manera, non essere umile, tira fuori il libro di Pierre Bourdieu di cui mi parlavi ieri. Ma io potrei citare così un nome a caso, mi permetto di citare Niklas Luhmann, che sicuramente era il professore. Alziamo ancora il tiro e via. Ecco, lo dica. Nick, alziamo il tiro. Adesso, non so cosa ha detto, hai sentito Alessandro? Sì, sei andato nella tua biblioteca piccolissima, la reparto sociologia, e hai citato. Io adesso, perché sono distante adesso, perché sennò potrei ricordare citare. La distinzione di Pierre Bourdieu, un libro fondamentale per gli studi sui consumi, ecco. È uno di quelli che Leonardo ha letto almeno 3 volte. No, noi professoressa la ringraziamo, cioè è interessante, insomma, è partito un dibattito, tutto poteva essere derubricato a dire, vabbè, ma guarda questo gesto da gradasso, no? Come tu Leonardo, la tua Porsche gialla decapotabile, dove l'hai parcheggiata la volta in cui sei stato? Avrei un episodio anche da raccontare. Avrei anche un episodio da raccontare riguardo una Porsche, ma è un po' lungo, magari dopo la pubblicità. Ce lo racconti dopo il traffico? Dai. Beh, lungo adesso. Sì. Cosa avrei fatto? Avrei preso in mano una Porsche, avrei fatto un incidente al primo incrocio, come tipico tu, quando prendi in mano la barca vera e tua pala l'hai distrutta. Anche dal punto di vista culturale, sembra uno così, che ha passato la vita in una grotta a mangiare della carne attaccata alle ossa, non ha mai letto un libro. Devi finire questa cosa, attribuire agli altri ciò che tu descrivi di te stesso, perché ti tagli le mani con un coltello da solo. Tu fai tutto da solo e poi ti lamenti che gli altri ti rappresentino come tu ami rappresentare. L'episodio non riguarda stavolta me. No. È un episodio che riguarda un'altra persona, da quello della Porsche. Vabbè. Dopo, se vuoi, te lo racconto. Tra l'altro, nel ringraziare la professoressa Francesca Setiffi, sociologia della cultura a Padova, tra poco, dopo il traffico e dopo il racconto in Maniera, avremo con noi Caterina Collovati per parlare di come invece alcune donne si sono rappresentate su Instagram, e questo ha fatto arrabbiare Caterina Collovati. Quindi rimaniamo in tema di rappresentazione e immagine che si dà di se stessi, un po' come Disastro Manera, che si rappresenta come lui, poi dice mi accusate di essere, ma sei tu che fai tutto da solo. Tra poco. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, Leonardo, cosa c'è? Cosa c'è con questa Porsche? È la Porsche di quei... Ragazzi, l'ho nominata 15 volte la Porsche, come minimo se non mi mandano una ruota di una Porsche dalla Porsche, io protesto con la Porsche. Vabbè, Leonardo, cosa c'hai? No, non è capitato direttamente a me, ma a un episodio. Allora, frequentavo anni fa, intorno al 2005, così, frequentavo, ma non mi sono mai fidanzato, con questa ragazza aspirante velina. Aspirante tutte velina. Tutte queste scuse non richieste. Prego, prego. Ci hai provato con un aspirante velina, no, ma sì, non te l'ha comunque data. Lei non ci stava. Poi... Una sera ero con lei, è venuta a prenderlo un suo altro aspirante fidanzato con una Porsche, che però non era l'ultimo modello, era il penultimo modello di Porsche di quell'anno, di quegli anni. E lei gli disse: sei un pezzente. Dice: perché sei un pezzente? Perché se vuoi la Porsche, o hai la Porsche ultimo modello, oppure hai la Porsche d'epoca. Se vai in giro con la Porsche penultimo modello, vuol dire che sei un pezzente. Un pezzente. E lui se ne andò amareggiato e poi lei sdegnata a cambiare la Porsche, a prendere quella ultima. Vabbè. Allora, adesso io premessa, io la penso, quando ieri ho visto il post, come Caterina Collovati, però sono uomo e quindi mai mi sarei permesso e mai mi permetterei di dire: ah, ma insomma, che vergogna, perché, adesso spieghiamo il fatto, perché da uomo sennò apparirei strano e apparirei, come dire, fuori luogo. Ma c'è una donna, appunto, Caterina Collovati, che ha preso due foto di, sono Alessia Marcuzzi e Asia Argento, di alcuni dettagli anatomici, insomma, di Alessia Marcuzzi e Asia Argento, che hanno pubblicato, credo, su Instagram una loro foto del proprio sedere, bellissimi sederi sicuramente, bellissimi culi, ecco, possiamo dirlo. E Caterina Collovati, che è con noi, buongiorno Caterina e grazie buongiorno. Di essere qui. Buongiorno. Caterina Collovati sostanzialmente ha scritto: ma che bisogno c'è di rappresentarsi così? Poi dopo non lamentiamoci, insomma, se siamo vittime di una sorta di cultura maschilista che ci rappresenta per alcuni dettagli del nostro corpo. Che cosa ha fatto arrabbiare, Caterina, queste guarda, due foto? Guarda, tu hai messo insieme due post, uno vecchio mio e uno quello di ieri. Io ieri mi sono semplicemente domandata, appunto, da dove possa nascere il desiderio di condividere proprio con milioni di sconosciuti una foto in cui si è nude. Ecco, questo. Poi non ho tratto la conclusione, non lamentiamoci, questo lo dissi tempo fa rispetto a delle foto di Diletta Leotta, insomma il tema è sempre questo, perché rimango molto perplessa davanti, anzi oggi, ieri sono rimasta ancora più perplessa, perché non stiamo parlando di 26enni, 27enni, lì c'è l'età che può ancora consentirti certe scelte sbagliate, a mio avviso, a mio modesto avviso, mentre quando si raggiunge una certa età, secondo me ci dovrebbe essere una maturità che ti fa pensare alle conseguenze di una foto simile. Cioè, un conto è quando si è giovani e si vuole arrivare nel mondo dello spettacolo, e ricordiamoci le foto di anche della Hunziker, no? Che poi è stata attaccata anche ultimamente per quelle foto del costume, eccetera. Vabbè, quella però era più una campagna pubblicitaria. Esatto, oltretutto, e poi lei aveva 20 anni, dico, e quindi magari uno a quell'epoca non riflette molto, o meglio ha il miraggio appunto della carriera davanti, e quindi fa delle foto anche così, che poi a 50 anni magari rifletti, a 48 non le fai più. Ecco, questo dico perché sei una madre, hai dei figli adolescenti. Io dico che a quell'epoca poi dovrebbe essere addirittura vietato proprio. Poi, per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole, però poiché sei un personaggio pubblico, metti queste foto pubblicamente sulle pagine dei social, uno può e poi uno ti giuri. No, ma infatti allora il concetto è: viviamo nell'era della comunicazione. Se uno mette delle foto, una in questo caso, o due mettono delle foto con il proprio sedere in primo piano, stai comunicando io sono che il cosa? Mio sedere in quel, esatto. Cioè, nel senso, cioè, la dico una bella immagine. E, no? Bravissimo. E poiché proprio viviamo in un'epoca in cui tutti quanti aspiriamo a un cambio culturale, lo diciamo tutti i giorni, no? La donna deve rappresentarsi in un altro modo, una donna che ha cervello, una donna non deve apparire, non deve essere considerata solo per il corpo, e quindi non possiamo essere noi stessi, dico io, a fare questo errore e porci in quel modo. Cioè, io vorrei una risposta proprio davanti alla domanda: che cosa vuoi rappresentare? Cioè, io lo trovo veramente fuori luogo. Poi non puoi lamentarti degli haters eccetera e quant'altro, perché si sa che poi la gente anonimamente dà sfogo. Qui però, cioè, ecco Caterina, se lo dicesse un uomo, poi si scivola come quelli che dicono: ah, non ti puoi lamentare se vai in giro vestita così. No, se vai in giro vestita così e poi uno ti fa l'apprezzamento e mi fermo all'apprezzamento, no? Cioè, non puoi andare in giro con gli short, non puoi andare in giro, se no, poi dopo non ti lamentare se una persona ti molesta. Esatto, è scivoloso e pericoloso questo tipo di discorso. È molto pericoloso, però io credo che l'errore sia proprio nostro, di noi donne, che ancora per avere forse, non lo so, delle sicurezze nostre, che a una certa età, capito, cominciano a vacillare, abbiamo bisogno proprio di mostrare uno splendido fisico, peraltro, sia ben chiaro, perché poi sono stata anche accusata invidiosa, cioè gli esseri piccini poi esistono e non comprendono proprio il significato di quello che io ho voluto dire. Secondo me è inopportuno che a un certo punto, oltretutto mi riferivo anche per esempio ad Asia Argento è stata la paladina delle donne, è stata colei che ha dato il là proprio a una battaglia meravigliosa, secondo me, il Me Too eccetera, per il diritto delle donne proprio a lavorare senza essere importunate, e invece poi mi scivola in una foto di quel genere. E, sì, però al sargento a questa risposta ha detto: non si capisce perché la molestata, cioè lei debba rappresentarsi come una suorina, ecco, sono due cose diverse. Vabbè, perché sai, poi chi vuole giustificare queste pose poi delle espressioni scorrette. Chiaro che si può cadere nel bacchettonismo, come ho scritto io, però sia ben chiaro, io parlo di dignità, parlo proprio da donna che vuole che le cose cambino, ma dobbiamo farle cambiare, soprattutto noi che facciamo comunicazione, capisci? Secondo me è proprio un dovere da parte nostra, cioè, altrimenti si cade nell'incongruenza. Anche la Marcucci, mi ricordo. No, ma è certo, queste sono le critiche. Io e te, Leonardo Manera, non abbiamo di questi problemi, non abbiamo niente, non abbiamo, come dire, tu hai i muscoli da esibire, Leonardo, vuoi fare un po' il Vacchi, sì. Il Vacchi dei comici, insomma, con i tuoi addominali. No. Mio fisico è invidiabile, punto tutto sul fisico io, diciamo. Devo dire che effettivamente Leonardo Manera, per i suoi 52, credo, anni, ha un fisico invidiabile. Io lo invidio quando dico: magro, perfetto, strutturato. Bellissimo. Cioè, a me è bellissima, però non si mette col pettorale di fuori. Bravo, ecco, perché altrimenti tu sminuisci te stesso, sminuirebbe il cervello, non so come dire. Invece facciamo emergere altro, poi teniamoci comunque in forma, perché stiamo bene nel vestitino, insomma, che non tira, sia uomini che donne. Però poi non comunichiamo attraverso il corpo, comunichiamo con la testa, che è sempre più piacevole, secondo me. Ma la cosa che a me la cosa che un po' preoccupa è che vedo che le giovani generazioni, anche ragazzini molto piccoli e molto piccole, guardano molto al fisico. Questa è una cosa che, per esempio, quando ero bambino io non era così importante. Invece adesso vedo ragazzini di 11-12 anni che già guardano alla tartaruga ipotetica, e questa insomma è una cosa un po' come più preoccupante. Mio figlio Mattia mio ha detto: papà, devo fare la tartaruga. Ma che cacchio, te la compro se ho la tartaruga e la teniamo lì? Ma che la tartaruga? è Caterina Collovati, è così, è l'era della bellezza a tutti i costi, fin da della bellezza a tutti i costi, dell'apparire, purtroppo ai modelli, ed è questo. Noi abbiamo da sempre critichiamo, no, anche le pubblicità che usano i corpi come oggetti, e poi appunto siamo i primi a metterci in posa in quel modo, e quindi a dare degli insegnamenti sbagliati ai nostri giovani, ecco, perché io credo che ai figli bisogna dire che l'attività fisica è importante, perché comunque, ripeto, è piacevole star meglio d'aspetto, ma non è quella la cosa più importante, cioè trasmettiamo amore in altro modo ai nostri ragazzi, no? Grazie, no, io sono totalmente d'accordo, insomma, grazie Caterina Collovati per essere stata con noi, chissà Alessia Marcuzzi, Asia Argento, insomma, cosa, beh, Asia Argento battaglia e qualcosa ha detto, Alessia Marcuzzi non so se ha replicato, non so se ha detto qualcosa, comunque insomma il dibattito c'è sui social, si è molto animato su questo, caro Leonardo, hai un racconto anche su questo? C'era una volta in cui ho fatto una foto sui social, su questo no. Non abbiamo niente, possiamo andare alla borsa tranquillamente. Andiamo alla borsa tranquillamente. Ma non fare l'offeso, ma dai. Basta, ma mi offendo. Oggi sei stato a lavorare a Radio Bella e Monella. Sei stato un po' smargiasso, un po' anche smemorato, perché hai detto che hai fatto colazione con le cipolle e dopo cipolline e dopo 10 minuti te lo eri dimenticato. Sono un po' preoccupato per il tuo... Di un'ultima cosa contro di me, poi possiamo andare in borsa, alla borsa. Ma ti ho detto anche che hai un fisico che ti invidio, meraviglioso, che vorrei avere io, mica la mia pancettona. Dai, andiamo alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Si chiama arroganza padronale, io ho i soldi, io faccio come mi pare, semplice, voglio difendermi, zoologia, l'estensione biologica del proprio corpo, si chiama arroganza padronale, perché se c'era una panda l'avrebbero portata via. Bravo Leo, anche io punto tutto sul fisico, parlo sempre di Einstein infatti. Manera, vai sotto il corso Sempione, sotto i portici, e vai con la tua stampante ad aghi, dato che la ami tanto, e il tuo prolungamento. E va bene. Ormai sei diventato un po' il bersaglio preferito dei nostri ascoltatori, molto bene, perché di solito se la prendono con me, invece prendetevela con Manera, potrebbe essere una nuova rubrica. Prendetevela con Manera, la causa ultima dei problemi degli ascoltatori. Facciamo questa nuova rubrica, sì, la condivido. Dai, ne hai bisogno per tirarti su di morale. Paolo da Roma, buongiorno Paolo. Buongiorno, salve. Precisamente da Maccarese, in realtà, che è un paese molto vicino, stupendo, a Roma, e vicino, certo, all'aeroporto, conosco, di Fiumicino. Ah, conosce persino? Sì, sono stato una volta. Prego. Allora, no, cosa voleva dire Leonardo? C'ho anche dei cari amici di Maccarese. Che macigno oggi in Milan, veramente. Oggi stava dicendo una cosa un contro di me, Alessandro. Allora, tu lo puoi conoscere Maccarese e io no, ma guarda che questa è un'arrogante, una presunzione, figurati, senza limiti. Ma tu conosci tutti. È il re di Maccarese qui, Alessandro Milan, che c'è stato 1000 volte, è stato 1006 volte a Maccarese, e io non posso conoscere il nome di Maccarese. Sono contento, voi. Vorrei far registrare, caro Paolo, mi ha mandato a fare in culo Manera, va bene. Prego, Paolo da Maccarese. Allora, no, la storia è questa. Ho chiamato prima quando sentivo che parlavate dei biglietti per Olbia cancellati. Io ho avuto una storia molto simile, fortunatamente finita bene, però diciamo che mi ha lasciato molto perplesso sulla gestione Alitalia. Per essere molto trasparente, per farla breve, io ho acquistato tipo 10 giorni fa, neanche chissà quando, sempre il 6 o quindi poco di più, dei biglietti per portare i miei figli in Svizzera, a Ginevra, dove ho mio fratello che vive lì, quindi va a vedere i cugini. Giovedì scorso scorso mi arriva una mail dall'Italia che dice che i biglietti sono cancellati, le prenotazioni sono cancellate per emergenza COVID. E che le hanno COVID. Proposto? E che le hanno Niente, proposto? In hanno camera? Detto chiami il servizio clienti. Cosa che ho provato a fare, così ho chiamato tutti i numeri che riuscivo a trovare sul sito di Alitalia dei servizi clienti, sì. Da quelli a pagamento, gli 800, l'82, 89, 20, 10, freccialata. Non le dicevano niente? No, erano isolati. Sì, assolutamente isolati e non si riusciva ad avere una risposta. E, qui c'è molta gente che lavora in aeroporto, per cui persino abbiamo cominciato a chiamare amici, genitori di compagni di classe, di figli che lavoravano e cercavano di darci un aiuto dall'interno. La soluzione alla fine ce l'ho avuta andando io fisicamente in aeroporto, perché appunto siamo qui a due passi, e aeroporto deserto, c'era il botteghino dell'Alitalia lì e direttamente e quindi allo sportello. Ma che le hanno dato in cambio? Che cosa le hanno dato? Mi hanno dato i soldi? No, mi hanno dato degli altri biglietti, nel senso che ho semplicemente anticipato il volo di un giorno, però il tema mio è che l'informazione nella prima mail mancava, cioè non, nella mail ci diceva soltanto che i voli sono cancellati. Il tema è se lei non abitasse vicino all'aeroporto, esatto. intanto sarebbe un problema, per me sarebbe un problema andare, cioè, tutti, immaginate i cittadini tutti che si devono riversare negli aeroporti perché non funzionano i centralini. Sarebbe incredibile. Comunque le hanno di fatto ridato un biglietto, quindi il valore di quello che lei aveva comprato, non le hanno proposto voucher, non le hanno dato. Mi hanno detto che potevo anche fare quello lì, però in realtà, cioè, alla fine la soluzione era che non è che era del tutto interdetta i collegamenti, semplicemente quel giorno sì. Avevano cancellato il volo perché non c'era gente, però ma io il giorno dico, prima ma un volo c'era. Sì, sì, la questione è al di là, uscendo dalla questione dei biglietti, la ringraziamo Paolo da Roma, anzi da Maccarese, ma banalmente non si potrebbe, cioè io ho comprato una cosa, di questa cosa non fruisco, mi ridate i soldi, ma punto, ma non dovrebbe essere una cosa normale, banale, tu Leonardo, di qualcosa, anche se mi odi oggi, di qualcosa lo stesso in mio favore, intervieni, no, soccorrimi. Oggi non voglio intervenire in tuo favore, te la devi smazzare tu da solo, non voglio dire niente a tuo favore. Vabbè, anzi, cosa ci volevi dire di Maccarese? Conto. Hai fatto uno spettacolo a Maccarese? No, a Maccarese no. Hai un episodio però amaro? Non ho episodi di Maccarese, non ho nulla, l'ho sentito anch'io più volte nominare. Volevo dire che sì, è noto che Maccarese è vicino a Roma. Ecco, ma tu mi hai frenato sul nascere dicendo figuriamoci se questo qua mi hai sentito nominare Maccarese. Ti ho castrato, no, non sì. Sia mai. Dai, Stefano da Torino, anzi Stefano da Torino, guardi, parli con Manera oggi. Stefano da Torino, prego, Manera, c'è prego, Stefano buongiorno. Da Torino che voleva dirti una cosa. Prego Stefano, c'è Leonardo Manera che l'ascolta. Anche due non è un problema. Sì, vai. Ma io trovo questo fatto della specificazione femminile una cosa, cioè, superata. Cioè, voglio dire, qui innanzitutto le donne non sono attendibili. Perché il corpo femminile va mostrato e loro lo mostrano, io sono nell'abbigliamento, per cui conosco tutti gli aspetti di come si vogliono presentare le donne e nessuno mi toglie l'idea che le donne vogliono mostrare tutto il bello che possono avere e nascondere tutto quello che hanno da nascondere, ma questo non ha niente a che vedere con femminismo, con la mercificazione, con altro, sta sì, nel le foto in questione. Di donne. Sì, sì, ma le foto in questione erano un po' diverse, cioè sono due foto di due sederi in primo piano, cioè nel senso, quindi due importanti donne, Alessia Marcuzzi e Sargento, le foto di cui si stava discutendo, che hanno proposto in primo piano il loro sedere. E questo ha fatto arrabbiare Caterina Collovati, ma nel senso massima libertà, ognuna ovviamente fa ciò che vuole, la libertà di potersi esprimere, però a dire che senso ha rappresentarsi così, questo si chiedeva Caterina Collovati. Ma voglio dire, allora scusi, qui abbiamo una fotografia che pubblica, solo perché pubblica e va a tantissime persone, vista da tanti, ma se lei esce la sera, io non mi scandalizzo, anche io ho una figlia, per cui posso parlare in piena libertà, c'è la massima mercificazione del corpo femminile, ma io non la chiamo mercificazione, la donna vuole mostrarsi. Va bene, ma Caterina Collovati, facciamo un discorso a dire: se tu sei, che ne so, una conduttrice famosa o se sei un'attrice e ti rappresenti così, dai l'immagine che non stai facendo vedere, guarda che brava conduttrice sono, guarda ma che brava attrice sono. Sai cosa ti risponderebbero loro? Direbbero: io sono una donna a tutto tondo, quindi posso mostrare la mia parte fisica e poi quando voglio anche, mostro anche la parte e sono. Anche. Quindi sì, ti risponderebbero però, così, io ti dico quello che risponderebbero loro, poi posso essere d'accordo, non d'accordo. Ma io ti dico, se io allora domani vedo la stessa foto di Asia Argento e vedo una buccetta d'arancia e dico: ah, non sei più all'altezza come prima, poi che cosa mi dicono? Ah, sei un sessista. Ma no, cioè, sto commentando il fatto che tu prima, non so, sei mesi prima, rappresentavi un sedere perfetto, dopo sei mesi c'hai una piccola smagliatura, ma non sono io, cioè, sono io che lo noto, ma perché tu, come dire, mi hai buttato l'occhio su quello ed è quella la rappresentazione che hai voluto dare di te stessa, anche quella, no? Cioè, non è che sono io che vado a cercare. Tu sei una un cosa po' un cercatore di cellulite, vai a vedere tutte le foto per vedere sì, se c'è un po' la pelle a buccia d'arancia e mettere i messaggi. Io sono consulente di Novella 2000. Sono consulente di Novella 2000. Segnalo. Allora, sai che d'estate io fui, ci sono le foto poi. Consulente io fui di Novella 2000. No, io. Protagonista di che cosa? Di una buccia d'arancia, no? Di un servizio di 3 pagine su Novella 2000. Ecco. Dopo lo fotografo e ve lo mando da mettere sulla pagina. Per quello ce l'ho. Adesso andiamo al traffico, però. Dal traffico. Hai scoperto che per andare a lavorare non serve andare in ufficio. Per fare un meeting con i fornitori non serve una sala riunioni. E che per incontrare i clienti basta essere connessi in sicurezza. Perché con Vodafone Business hai anche Microsoft 365 e il tuo posto di lavoro è ovunque tu sia. Il tuo lavoro digitale, la nostra soluzione per renderlo sicuro e sempre connesso. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vieni su voda.it/lavoro-digitale. Ready? Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, signori, per concludere questa puntata, secondo me ci vuole un pochino di educazione in più, perché siamo un po' trascesi io e Leonardo, e quindi sono contento che sia venuto a ritrovarci in studio Elenio Mariotti, la sardina. Buongiorno Elenio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, tutti educati, buongiorno. Tutti insomma, va bene. Allora, come sta? Tutto bene? Si parla molto delle sardine, no? Anche allora, diverse interviste state rilasciando, sono contento, spesso lei è qua. Molte interviste, ma sempre con educazione, infatti la cosa che contraddistingue le sardine è l'educazione. Cioè, per esempio, per strada salutiamo sempre chi incontriamo, anche gli sconosciuti. Tranne se hanno un pitbull, perché il pitbull di solito non è mica tanto educato, però a noi piace anche lui. Poi togliamo sempre la suoneria del telefono per non disturbare. È per quello che i primi raduni sono nati su Facebook, perché provavamo a telefonarci ma nessuno rispondeva mai, no? Perché non avevano la suoneria, per non disturbare. Quando tutto andiamo in piazza, prima di entrare in piazza ci puliamo i piedi sullo zerbino e chiediamo permesso, perché va bene manifestare ma sempre con educazione. Ecco, questo ci tengo a dire come rappresentante delle sardine. Senta, io glielo chiedo tutte le volte, glielo chiedo anche questa volta. Ci dà una definizione una volta per tutti su chi sono le sardine? Beh, se c'è una cosa che accomuna tutte le sardine è che il nostro corpo è composto prevalentemente da acqua. Acqua naturale, perché se fosse acqua gassata avremmo tutti la pancia gonfia per via delle bolle, capito? Sì, ma anch'io. Poi che non sono tutti sardina. Diversi. Per esempio, c'è qualcuno della Vergine che è pignolo maltruista, qualcuno del Sagittario che è saggio e indipendente, c'è qualche bilancia. Quello che però non dobbiamo mai dimenticare, ed è un punto su cui mi sento di insistere, è che conta di più l'ascendente. E quindi adesso per noi è arrivato il momento di esporci, dobbiamo avere il coraggio di dire in cosa crediamo davvero. Ecco, questo è un altro punto. C'è la fantasia. La fantasia, bisogna essere chiari fino in fondo, bisogna dire che la fantasia è educata, la non fantasia non è mica educata. Se c'è la fantasia puoi fare tante cose, per esempio gonfiare un palloncino, sbucciare una mela, anche fare una partita a biliardino, ma senza rullare. Ah, beh, perché se c'è la fantasia non serve rullare, il gol del portiere non vale mica doppio. Ah no? Questo volevo. Io avrei detto, senta, però so che ci sono già dei dissapori all'interno del movimento. Alcuni addirittura hanno creato altre sardine, un soggetto politico denominato Oltre, ispirato a Massimo Cacciari. Com'è sì. questa cosa? Allora, qui voglio essere chiaro, voglio dire una cosa. Quando ti trovi davanti a una porta a vetri, è sempre difficile capire se devi spingere o tirare. A volte c'è il cartello, no? Ma quando leggi spingere, sì. di solito stai già tirando e viceversa. Beh, soprattutto quindi... se è scritto in inglese, perché nessuno si ricorda mai la differenza tra push e pull. Ecco, mi rendo conto che sono stato un po' diretto. Sì. Mi permetto di parlare a nome di tutti quando dico che non è neanche facile ricordarsi se il tuorlo è quello giallo o quello bianco. Non possiamo mica farcene una colpa. A questo punto aggiungo un'ultima cosa. Posso? Cioè una domanda Prego, che ci facciamo in molti. Ho chiesto dei dissapori io però. Nessun esponente politico ha mai avuto il coraggio di rispondere. Cioè il dromedario è quello con una gobba solo o con due? Cioè, chiedo scusa questo... se ho stato un po' i toni, ma è ora di sentire. È ora di farci Guardi, sentire. Su questo la seguo perché sono anni che io mi... vabbè, allora però... Scusate, sono stato un po' diretto. Un po' troppo diretto. Ecco, c'è un altro... Chiedo scusa. No, ma ha fatto bene, Elenio. Senta, c'è un'altra questione chiara che voi avete posto. La campagna dalla stessa parte, per schierarvi contro il gap di genere. Quindi, alle prossime regionali, farete delle liste vostre? Cioè, vi candidate? Questa è una domanda maleducata. Ma io... Adesso, cioè, è una domanda... Un po' invadente. Cioè... Voglio dai, rispondere, insomma. Comunque Prego. Rispondo perché sono educato, rispondo che bisogna pensare che la vita è come un hotel, cioè puoi rubare le saponette, gli sciampini, la cuffia per la doccia, le ciabatte, anche il piccolo set da cucito, ma l'accappatoio no, cioè puoi rubare tutto in albergo, ma l'accappatoio no. Ecco, questo è quello che penso e credo di parlare a nome di tutti, se dico anche che la moquette è poco igienica, di qualunque colore sia. E con questo credo di aver risposto alla sua domanda. Di aver detto tutto. Sì, io credo di no, però se lei è educatamente contento, sì, se è contento così ed educato, a me sta bene. La moquette porta c'è dentro tutti dei batteri, dei virus, quindi va bene tutto. E poi non si ruba l'accappatoio, questo voglio dire. Sì, ma la saponetta... Con educazione. Sono stato un po' troppo diretto, ma è il momento di dire le cose con chiarezza come stanno. E chiedo scusa se ho alzato i toni. Non li ha alzati, signor Elenio Sardina. Io la ringrazio. Dei dubbi ancora mi rimangono sulle domande che le ho fatto, ma se lei educatamente è contento così, noi ci potremmo anche fermare. Io credo, cioè, come dico sempre... Cioè bisogna capire attraverso la propria educazione quello che viene comunicato, perché essere troppo diretti è come mangiare una cotoletta troppo fritta, questo volevo dire. Cioè la cotoletta va fritta con educazione, non che la tieni nell'olio bollente. Io la faccio friggere la cotoletta nell'olio tiepido. Dai, va bene, educato. Altrimenti la cotoletta nell'olio educato. Ci troviamo la prossima volta. È più tiepido dell'olio bollente, che è maleducato. La ha nostra sardina. La parola è troppa. Due sono troppe. Uno. Uno. Nessuno. Uno. Nessuno. Nessuno. 100.000.